a queste persone. I cittadini stranieri in Italia sono 4 milioni e mezzo, il 7,2% dell'intera popolazione italiana. Pensando a questa fascia sociale che produce nel nostro paese, produce quindi anche come dire, ricchezza per quello che riguarda l'Italia, Patti Chiari, il consorzio di banche italiane nate, come ricorderete, con lo scopo di diffondere la cultura della trasparenza e della corretta informazione economica, ha lanciato il portale dedicato agli stranieri affinché capiscano e si possano orientare facilmente nelle offerte dei servizi bancari del nostro paese. L'iniziativa è stata lanciata in collaborazione con il settimanale Vita, il magazine del no profit. Noi questa mattina ne parliamo con il segretario generale del consorzio Patti Chiari, il dottor Massimo Roccia. Dottor Roccia, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, diamo subito le informazioni di servizio che servono alle persone che ci ascoltano. Intanto le 5 lingue presenti sul sito. Esatto, abbiamo inaugurato una nuova sezione che si chiama Imprenditori Immigrati per dare delle risposte semplici ma efficaci a tutta quella enorme clientela di piccoli imprenditori, di artigiani che entrano nella vita economica italiana. Serve a capire quali azioni vanno svolte per essere in regola come cittadini italiani, una descrizione dei servizi e delle tematiche finanziarie di base, cioè a cosa serve un conto corrente, un libretto di risparmio, a come si usano le carte, come si fanno le rimesse, come si fanno dei piccoli investimenti, e poi una piccola sottosezione speciale dedicata specificamente agli imprenditori, realizzata insieme a CNA World di Roma, che parla degli strumenti di finanziamento per l'avvio delle imprese, come il leasing etico, il conto corrente per le piccole imprese. La cosa bella è che abbiamo tradotto tutto questo in 5 lingue: inglese, spagnolo, francese, rumeno e albanese, che sono le 5 lingue straniere più parlate dai cittadini immigrati in Italia, proprio per parlare la loro lingua. Ecco, lei ha parlato di servizi rivolti prevalentemente a quella popolazione straniera che arriva in Italia e addirittura sceglie di non tanto insediarsi, di mettere su famiglia, ma addirittura di costituire delle imprese. Ha fatto bene a precisarlo, perché noi a volte siamo talmente qualunquisti che quando parliamo di popolazione straniera in Italia non facciamo altro che rimandare la nostra testa all'immagine dell'extracomunitario che arriva sul barcone a Lampedusa, che difficilmente si recherà in banca per aprire un conto corrente. Invece ci sono lavoratori da ogni parte del mondo, ci sono anche gli studenti stranieri che per esempio vengono da noi, si fermano anni, magari per sempre, studiano, trovano un impiego e di conseguenza hanno bisogno chiaramente di mettere in piedi un po' tutta la struttura della propria vita, partendo anche dalle esigenze finanziarie. Allora, dottor Roccia, che esigenza è stata colta tanto da aprire questa nuova sezione sul sito di Patti Chiari, che è già un sito piuttosto ricco per quello che riguarda appunto le tematiche finanziarie? Ci sono tutte le informazioni legate alle definizioni dei prodotti di investimento, i conti correnti a confronto e quant'altro. Quali sono le esigenze finanziarie degli immigrati che vivono nel nostro paese, ancora prima di arrivare alla figura dell'imprenditore straniero, dottor Roccia? L'esigenza di base è quella che noi chiamiamo l'inclusione finanziaria, cioè entrare a pieno titolo nella cittadinanza finanziaria di un paese, il che vuol dire affrancarsi dal contante e entrare in relazione con il mondo della piccola finanza, diciamo così, dei conti correnti, degli strumenti di pagamento offerti dagli intermediari. Calcolate che nel mondo degli imprenditori il 70% degli imprenditori stranieri in Italia ha già un conto corrente, il che è un dato molto importante e segnala in modo inequivocabile la proattività di queste persone, il desiderio di integrazione ma anche di lavorare bene nel nostro paese. Addirittura il 6% è pluribancarizzato, cioè ha rapporti con la sua impresa con più banche. Questo dice semplicemente che questi servizi sono fondamentali quando si vuole operare in modo onesto e trasparente, e sono anche servizi efficienti per sia incassare ma soprattutto nel tempo per accedere al credito. Mm-hmm. Quindi gli stranieri in Italia devono gestire i propri incassi, naturalmente devono anche trasferire il denaro ai paesi di origine, dottor Roccia. Assolutamente, le rimesse sono una parte importantissima, ormai l'offerta delle banche italiane considera in modo specifico questo grande tema delle rimesse, dove c'è una grande concorrenza anche da parte di operatori non bancari, e quindi esistono prodotti, diciamo pacchetti dedicati a questo tipo di soggetti, questo tipo di clienti, che prevedono delle rimesse dentro la configurazione del pacchetto. Questa è una cosa importante perché ovviamente l'obiettivo fondamentale di queste persone è guadagnare per poter trasferire risorse magari per una parte della famiglia che è rimasta nei paesi d'origine. Dottor Roccia, questa sezione del sito di Patti Chiari è già attiva o siete solo alla fase di lancio? siamo nella fase di lancio anche perché vorremmo accostare alla sezione del sito anche una guida cartacea che sarà prodotta nelle prossime settimane e che sarà distribuita negli sportelli delle banche, ma anche dei workshop di formazione tra quadri dove metteremo a confronto dentro una stessa stanza sia imprenditori italiani che imprenditori stranieri e operatori di banche insieme a CNA World e poi dei veri e propri seminari di educazione finanziaria rivolti agli imprenditori immigrati. L'ultimo progetto che abbiamo in mente è eventualmente un bando per un progetto di start-up imprenditoriale sempre insieme a CNA World che consenta di segnalare anche chiaramente a queste comunità che chi si impegna bene e sa fare attività imprenditoriale anche nel nostro paese è certamente benvenuto e l'industria bancaria è qui per cercare di servirli nel modo migliore. Prima di questa iniziativa una persona immigrata, un albanese che vive e lavora in Italia ma può essere anche uno spagnolo, un ecuadoregno, un filippino, lo sappiamo bene, quante difficoltà avrebbe avuto per destreggiarsi fra le banche? In sostanza che tipo di limiti anche dell'industria bancaria nei confronti di questa popolazione avete riscontrato, dottor Roccia? Ma forse il limite più importante riguarda la lingua, che è un grosso mediatore ovviamente e un grosso tramite nelle relazioni. Il fatto di impegnarsi su più lingue corrisponde anche ad un riconoscimento di integrazione di queste culture, di queste popolazioni, diciamo che presentarci parlando la loro lingua ci sembra il modo migliore di dimostrare che i nostri servizi sono aperti a loro e loro sono benvenuti come clienti nelle nostre banche. Già alcune banche hanno addirittura delle filiali dedicate, quindi abbiamo anche quest'altro esperimento molto importante dove almeno due grandi banche hanno lanciato delle filiali dedicate con personale madrelingua che consente di dialogare in modo più efficace e soprattutto superando quelle barriere di percezione di difficoltà che a volte esistono nelle popolazioni. Allargherete anche ad altre lingue oltre alle cinque che abbiamo già citato? Questo ci stiamo lavorando, ci stiamo anche ragionando, ovviamente queste coprono una quota molto alta della popolazione immigrata, quindi l'esigenza di base è colta e poi stiamo anche aspettando un po' di feedback per vedere se questo esperimento produce risultati attesi. E se c'è bisogno di qualcos'altro a cui magari non avete pensato. Dottor Roccia, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Anche a voi, buona giornata. Arrivederci. Era Massimo Roccia, segretario di Patti Chiari. Alessandro. Eccoci qui allora, alle 12. Alle 12 faccio un tema che pure tu hai stamattina ampiamente valorizzato nella tua rassegna stampa, sai, la questione del tributo per chi fa il ricorso contro la multa al giudice di pace. Ci sono queste due ampie pagine sul Sole 24 Ore, noi stamattina le rispiegheremo in lungo e in largo ai nostri ascoltatori, visto che la multa è un tema che piace sempre molto. Purtroppo, esatto. più che altro ci riguarda sempre molto. Alle 8:32 minuti, eccoci qui, le notizie in primo piano, non c'è alle porte alcuna Tangentopoli, ha detto il Premier Berlusconi, ieri poi ha aggiunto, nelle nostre liste non ci sarà alcun personaggio compromesso in modo certo. Intanto va avanti l'inchiesta sugli appalti al G8, secondo i PM alcuni degli indagati volevano fuggire all'estero, in Spagna o in Messico, per questo sono scattati gli arresti. In Afghanistan almeno 21 civili sono rimasti uccisi in un raid aereo dell'ISAF. L'obiettivo era un gruppo di talebani, lo ha comunicato poco fa il Ministero degli Interni afghano. Infine per il calcio, Roma e Milan vincono, si avvicinano all'Inter capolista. I giallorossi 1-0 sul Catania sono a meno 5, i rossoneri 2-0 a Bari sono a meno 7 con una partita da recuperare. Vince anche la Juventus che sale al quarto posto. E allora a 8:33 minuti siamo qui per parlare di smog, di traffico, della decisione di chiudere, non so se dire mezza Italia, ma più o meno sì, domenica prossima. Che ne pensate? È il tema della nostra domanda di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, al momento c'è da dire che il 65% di voi dice no, non serve a granché, è un provvedimento che non ci piace, ma intanto voglio salutare il ministro Altero Matteoli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ministro, buongiorno, ben ritrovato. Non piace tanto neanche a lei, mi pare di capire, lei è uno dei un po' scettico a dire, cioè servirà magari, ma insomma non è... No, io ho sempre sostenuto, a mio avviso, secondo verità, che non serve, che però i sindaci non hanno altre alternative. Siccome la norma dice che se si sforano un certo numero di giorni durante l'anno di inquinamento si devono prendere dei provvedimenti. Il provvedimento più facile è sicuramente quello di fermare le auto. Quindi lo dico in generale, non serve, però alternative a questo ce ne sono poche, quindi da sindaco credo che sia giusto farlo, ecco. Quindi lei, ma 80 comuni è un'iniziativa che non si è mai vista, cioè molto, qualcuno ha detto sì, sarà forse meno, per la prima volta si sono messi d'accordo più sindaci per prendere un provvedimento così serio. E può darsi anche che facendolo tutti insieme la stessa domenica eccetera, può darsi che qualche risultato in più lo dia, ma resto sempre del parere che poi da lunedì, quando la circolazione tornerà normale, nulla cambierà. Occorrono provvedimenti strutturali che costano molti soldi. Costano di più. Senta, però ieri il giornale li definiva addirittura ecocretini, questo forse è troppo? Non so. Ecocretini, scusi? Ecocretini venivano definiti sul giornale, quelli che vogliono questo, che dicono ci vuole questo blocco. Questo è troppo forse, ecocretini no. No, per carità, no, poi non è nel mio modo né di esprimermi né di parlarne, però ripeto, i sindaci hanno poche alternative a questo, ma non risolve il problema. Senta, però, Ministro, le devo chiedere quello che oggi c'è scritto sul Corriere della Sera, perché la sua collega Prestigiacomo invece ieri ha detto ci vuole, è giusto, anzi, tra poco ci sarà il piano dell'ambiente. Oggi c'è questa anticipazione sul Corriere che ha spiazzato un po' tutti. Il piano dell'ambiente si discuterebbe, tra l'altro, tra la Prestigiacomo, tra Scajola e lei, ovviamente, l'ipotesi 90 km all'ora sulla Milano-Bologna, cioè abbassare i limiti di velocità, quando si è discusso se alzarli fino a poco fa. Lei che ne pensa? 90 all'ora andremo? Beh, io non sono d'accordo, anche perché le macchine meno stanno sulla strada meno inquinano, e questo è il problema, ma questo è una vecchia, è un vecchio dibattito che si fa ormai da tanti anni e si sono trovate sempre decisioni diverse da questo punto di vista. Lei non è d'accordo comunque su questi 90 all'ora? No, sull'abbattimento a 90 all'ora non sono d'accordo. Ma ci sarà? Cioè c'è Non lo so, francamente l'ho letto come lei sui giornali. Poi la collega Prestigiacomo è molto brava, sta cercando di trovare soluzioni, quindi spero che ci siano dei provvedimenti che lei può prendere avendo a disposizione risorse che io allo Stato non conosco. No, mi stupisce un po' che l'abbia letto anche lei, perché qua si dice che si sta discutendo, ma invece è un'iniziativa che per il momento, dice lei, io non conosco. Io non la conosco. Va bene, senta, Ministro, io nel salutarla e nel ringraziarla le faccio una domanda sulla stretta attualità, perché so che lei ha già scritto una lettera al Corriere della Sera, molto anche adombrato, nella quale dire cioè io non c'entro nulla nell'inchiesta sul G8, sugli appalti, siccome però c'è un'intercettazione che è finita sui giornali, le chiedo allora almeno che ne pensa di questa vicenda delle intercettazioni, di tutta questa inchiesta, di che sta, qualcuno dice anche rischiando di terremotare la politica attuale. Io spero soprattutto che i magistrati siano messi nelle condizioni di decidere velocemente. Se ci sono dei colpevoli è giusto che paghino, e se ci sono coloro che sono stati coinvolti in maniera ingiusta, in modo da poterne uscire presto. Io poi per abitudine, quando subentra la magistratura, mi tiro sempre fuori, perché io ho fiducia nella magistratura e quindi credo che acclarerà come sono andate veramente le cose. Ma le ha dato fastidio questa intercettazione finita? Certo, mi ha dato fastidio, perché è un'intercettazione alla quale si evince in maniera palmare la mia totale estraneità. Un imprenditore mi chiama per un appuntamento e io gli dico di no perché me ne sto partendo, e è bastata questa frase per finire sul giornale in maniera, come posso dire, insinuante, ecco. e questo certamente non fa piacere a nessuno. Va bene, Ministro, io la ringrazio di essere stato con noi, perché poteva stare in apertura qualche minuto. Grazie, Ministro Matteoli. Grazie. Allora, voi, la questione è questa, posta sul tavolo, dice il Ministro, di fatto non serve, però siccome ci sono i PM che non sono i PM10, questa volta sono i PM, i magistrati, pronti se si sforano i risultati a mettere sotto inchiesta i sindaci, e siccome insomma ci vuole anche un modo per sensibilizzare, forse allora bisogna farlo. Che ne pensate? Tra poco sonderemo anche qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Voglio intanto salutare Flavio Morini, buongiorno, è sindaco, buongiorno, di Scansano in provincia di Grosseto, ma è soprattutto anche responsabile per l'ambiente dell'ANCI, l'associazione dei comuni che ha deciso questa cosa. Saluto anche Paolo Uggè, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Presidente nazionale della FAICONF Trasporto, è stato anche sottosegretario ai trasporti, molto critico, oggi sul giornale è stato durissimo. Lei, Uggè, condivide la questione degli ecocretini? Ieri il giornale ha lanciato questa cosa, sono ecocretini quelli che vogliono questa cosa, Uggè? Io ho ripreso il termine di feltri, che sì, mi sembrava... Sì. Duro, bello. D'altra parte è come se io, perché c'è un bambino in una classe indisciplinato, punisco tutti, mi sembra una cosa veramente demenziale. A lei non piace, insomma. Allora, Flavio Morini, eccoci qua, perché l'ANCI è arrivata insomma, a questa, cos'è, una provocazione quasi ideologica, una misura strutturale, un qualcosa, un segnale che avete voluto lanciare? Ma intanto vorrei fare un po' di chiarezza, perché l'obiettivo della riunione di Milano del 19, che abbiamo fatto con non 80 sindaci, ma erano un numero ben superiore, il numero di 80 non capisco neanche come sia venuto fuori dalla stampa, perché sono molte di più le città che aderiranno il 28 e che hanno partecipato a questa riunione, ma non è questo importante. Il nostro motivo non era quello di stabilire che con un giorno di chiusura al traffico si risolvevano i problemi di smog, in particolare relativi al PM10. Ma noi volevamo e abbiamo costituito un coordinamento permanente di sindaci della Pianura Padana, che io ho l'onore di presiedere, dove affronteremo e abbiamo affrontato in un documento quelle che sono secondo noi misure e compiti che ciascuno ai vari livelli istituzionali deve assolvere e si deve assumere. Questo è il problema vero. Il fatto del giorno del 28 chiaramente è una misura urgente, straordinaria, quale il blocco del traffico o targhe alterne sono solo utili, sì, a sensibilizzare la popolazione e non possono costruire né da sole né nessuno ha mai pensato che potessero risolvere il problema. No, ma questo sì, cioè nessuno ha mai fatto passare il messaggio blocchiamo tutto mezza Italia per un giorno e lo smog non c'è più. Questo no, non è stato detto da nessuno, neanche presentando l'iniziativa, no? Devo dire, sindaco. L'ha detto il ministro, le misure che servono sono misure strutturali, sì, calcolate, certo, che si parla in termini non tecnici ma comprensibili a tutti, il PM10, quindi il traffico veicolare, che sono responsabili del 70% dell'inquinamento sul PM10, ma il PM10 è neanche il 20% di quelle che sono le emissioni in atmosfera. Allora, ci sono poi le caldaie degli edifici, ma ci, certo, sono le industrie, l'agricoltura, quindi il discorso è molto complicato e va affrontato a tutto tondo. Io vorrei chiedere sempre a Paolo Uggè perché questa critica, perché molti ci dicono è vero, non servirà strutturalmente, è vero, non sarà la soluzione di tutto, ma nessuno lo dice, però meglio di niente, piuttosto che niente, qualcuno ci scrive, piuttosto qualcosa. Cioè sempre anche questa politica nel non fare mai niente, non è un po' sbagliata? È proprio questo. Allora, innanzitutto il ministro Matteoli dice una cosa molto vera, ma io ricordo che i PM, e io non sono difensore dei PM, non fanno altro che interpretare la legge, magari non sempre in un modo adeguato, sempre perfetto, ma c'è una legge. I politici cambino la legge se la legge non va bene. Uno. Due. Non capisco per quale motivo si deve adottare una misura che dicono tutti non serve a niente, ma veramente mi sembra una cosa fuori da ogni logica, e soprattutto non si fa nulla quando si riferisce a non farsi nulla. Io non vedo un comune, o ne vedo ancora troppo pochi, e ce ne sono di virtuosi, quello di Aosta, quello di Parma, che affrontano il tema della mobilità nei centri urbani secondo un programma serio che va a definire come devono accedere, con quali mezzi, con quale modalità, i cittadini che tutte le mattine debbono recarsi in centro, gli studenti e soprattutto anche il rifornimento dei negozi, andando a regolamentare, creare un sistema virtuoso. Quello affronta effettivamente la questione dell'inquinamento nei centri urbani. Sì, ma il concetto è: finché non si fa questo non si può far nulla, neanche il blocco? Ma se non serve a niente rischiamo di creare solo problemi ai cittadini, a coloro che hanno la mobilità. Pensi per esempio a Milano, dove c'è le giornate della moda. Cosa facciamo? Facciamo le deroghe, e quelli che vanno allo stadio facciamo altre deroghe. Non prendiamo in giro la gente. E si va coi mezzi. Queste sono misure solo per far vedere che si fa qualche cosa. Ma guarda che infatti nel mondo della moda sono già arrabbiati. C'è la settimana della moda a Milano e dicono: all'estero non capiscono queste cose, che ci si debba spostare, che ne so, col taxi oppure a piedi, eccetera. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Radio24.it per votare il sondaggio, a capire se questo blocco serve. Vediamo due ascoltatori. Anna Maria da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Che dice? Dunque, io sono andata a camminare ieri pomeriggio qui sulle colline dietro a Bologna. La coltre di smog che si vede, non è la prima volta che lo vedo, ma è terrificante, non è brutta, fa schifo. A me non interessa se c'è qualcosa ancora dopo, se questo non è abbastanza. Sono così stufa di benaltrismi, ci vuol ben altro, ma ci vuol ben altro. Facciamo qualche piccola cosa. Quindi a lei piace? A lei piace? Assolutamente sì, assolutamente sì. Che almeno la gente ci pensi un momento, un po', e cominci anche ad agire politicamente di conseguenza. Insomma, anche capire la questione, che sia anche un segnale quasi ideologico a dire: cominciate a darvi una smossa, visto che sennò rimaniamo a piedi. Riccardo da Padova che dice: buongiorno. Sì, buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Sì. Niente, io volevo dire la mia opinione, nel senso che secondo me non serve assolutamente niente. Ci sono degli studi che partono dagli anni 60 che confermano che questi blocchi del traffico non servono a niente, nel quanto in inverno il problema vero sono le caldaie, sulle quali nessun comune, visto che si parla di fare qualcosa, fa effettivamente qualcosa. Sì, guardi, questo è un tema molto dibattuto. Noi però ce ne siamo occupati 10 giorni fa e c'era un professore, il professor Mannucci, che dice: no, sgombriamo il campo delle equivoci. La gran parte dello smog è legata al traffico su gomma. Capisce, Riccardo? Poi, insomma, ci sono anche le scienze, sono interpretabili, mi sembra di capire, no? Lei dice che sono le caldaie, invece. Che sicuramente sì, contribuiscono, per carità. Sì, ma guardi che le vetture circolanti in Italia, molte, soprattutto nel nord Italia, vanno a GPL e metano. E GPL e metano non emettono particolato, è una combustione pura. Beh, insomma, GPL e metano, insomma, ma queste comunque sono discussioni, ripeto, io cito il professor Mannucci, non uno che si occupa di questo. Comunque lei dice non serve a niente perché sono altre le caldaie il problema. Ci ha raggiunto anche l'assessore all'ambiente di Napoli, Gennaro Nasti. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma com'è che anche Napoli, che non sta in pianura padana, ma anche voi aderirete, mi sembra, per solidarietà, è così? Noi abbiamo dato la disponibilità ad aderire laddove sia utile dare una estensione nazionale alla iniziativa che parte dal centro-nord, dal nord prevalentemente, e quindi su questo aspettiamo che almeno qualche altra città del sud, in particolare Roma, aderisca. Noi poi la domenica ecologica la facciamo una volta al mese, l'abbiamo fatta il 7 febbraio, quindi se serve a dare un rilievo nazionale per solidarietà la indiremo. Ma non ho capito, domenica prossima si ferma il traffico o no? Non è ancora... Al momento no, non al è momento. Previsto che si ferma, perché l'abbiamo fatto il 7 febbraio. Siamo disponibilissimi perché riteniamo di dare solidarietà e crediamo in un'iniziativa che ha una forte valenza educativa, perché altrimenti le persone continuano a dire che magari non è colpa delle macchine ma è colpa non so di che cosa, delle caldaie. Si dice che sono le caldaie, c'è l'aerosol marino, le polveri sariane, sono tutte colpe, non si capisce mai qual è la colpa, e invece è sempre una concausa. Senta, assessore, ma lei ha lanciato anche un'altra provocazione, leggevamo dai giornali, o proposta: togliamo i punti dalla la patente anche per chi viola le domeniche, cioè chi domenica prossima dovesse andare in macchina contro il divieto, togliamogli i punti dalla patente. Vabbè, a parte che bisognerebbe cambiare, credo, il codice, insomma, della strada. Infatti, noi, perché duro e pure, insomma, è in discussione la riforma del codice della strada. Noi abbiamo fatto una proposta alla Commissione Lavori Pubblici e su questo mi sembra che anche gli altri colleghi delle altre grandi città del nord siano d'accordo, di prevedere una decurtazione dei punti, anche un solo punto andrebbe bene, per chi viola non solo la domenica ecologica, ma tutti i dispositivi antismog, penso al bollino blu, penso ai blocchi frasettimanali. Sono tante le iniziative. Un punticino. Vediamo un po' che sia Flavio Morini e Paolo Uggè. Morini, è una proposta che l'ANCI fa sua o che ha fatto già sua? Ma intanto saluto Nasti che mi aveva inviato questa proposta e la valuteremo appunto nel comitato di coordinamento che questi sindaci hanno, che abbiamo messo in piedi. Però io credo, volevo fare un po' di chiarezza su un paio di affermazioni. Intanto, anche se non è una sede tecnica, le percentuali sono molto chiare, gli studi sono molto chiari su quello che per quello che sono costituite le emissioni in atmosfera, e lo dicevo prima, 20% traffico, 40% caldaie, 40% il resto industria e altre attività, quindi su questo bisogna essere chiari. Non so a dare i dati del parco circolante della Lombardia, perché solo il trasporto pubblico ha il 70% dei mezzi che sono inquinati, bisognerebbe informarsi su quelli che sono i dati, ma chiaramente non tutti possono. Il traffico è la parte minore, insomma. Il traffico rappresenta per il PM10 il 70%, sì, ma sul totale delle emissioni, che non sono solo PM10, dal circa il 17%, quindi è un problema, chiaramente, ma se non si capisce che il giorno del 28 non c'entra nulla con la risoluzione del problema, anche se chiaramente se i mezzi stanno fermi almeno quelli non inquineranno, no? Sì, non è che ci sono degli ecocretini. Tenete conto che l'articolo 32 della Costituzione dice che un obiettivo primario del nostro ordinamento è la tutela della salute dei cittadini, e il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, è un'autorità sanitaria locale. Quindi pensate cosa succederebbe se ogni volta si superano i limiti nei giorni feriali si chiudesse il traffico, no? Quindi questa questione del 28 avrà almeno aiutato a fare una riflessione collettiva. Non saremmo forse oggi con lei a parlarne e con i nostri ospiti se questo è vero. Successo. Questo è vero, ma infatti l'obiettivo da questo punto di vista è raggiunto. Io vorrei chiedere a Paolo Uggè, perché siamo in chiusura, la questione che abbiamo sottovalutato, che però il ministro Matteoli in apertura ci ha già detto: a me non piace, non sono d'accordo, l'ho letta sui giornali, a me stupisce un po' questa cosa, e cioè oggi sul Corriere si legge del piano per l'ambiente del Ministero la proposta di abbassare i limiti a 90 all'ora, per esempio sulla Milano-Bologna, in alcuni, non so, in inverno, in alcune autostrade, in alcuni tratti, abbassare i limiti. Uggè, che dice? È un'altra dimostrazione di come si fa la politica degli annunci, l'abbiamo appena assistito, si è citato lo studio di un professore Vannucci, ma per esempio non si parla di quello che dice un altro luminare della scienza come Veronesi, che cosa produce sulla salute dei cittadini questo smog, gli effetti del traffico. Quindi mi pare che la proposta del ministro Prestigiacomo sia esattamente come il pasticcio che sta combinando con il trasporto dei rifiuti, che ha dovuto cambiare tutto, perché noi siamo in una stagione dove delle persone che non conoscono esattamente quelle che sono le conseguenze lanciano delle idee, e ovviamente io non posso che essere d'accordo con Mattioli. Le faccio un esempio: pensi cosa succederebbe con 90 km all'ora, avremo i mezzi pesanti che vanno esattamente alla stessa velocità delle autovetture. È una roba inimmaginabile. Ma evidentemente il ministro Prestigiacomo, che viene da una bella città come Siracusa, dove i problemi del traffico probabilmente non hanno la stessa dimensione che c'è in una realtà molto più ampia come la pianura padana o nei tratti dove lei ha indicato vorrebbe introdurre limiti di velocità, ma poi pensi come si farà a controllare, cioè una roba che è al di fuori di ogni logica. Non noi siamo con la politica degli annunci. Le faccio un altro esempio. Lei sa uno studio, visto che citiamo gli studi, uno studio fatto dal Comune di Milano alcuni anni fa dimostrava che il potere di inquinamento degli autobus è pari a 2.033 autovetture. Se noi facciamo girare i mezzi che non sono né a metano né a GPL, che sono le uniche due fonti non inquinanti, e così per assurdo inquiniamo di più. Andiamo ad inquinare, aumentarlo, ma più o meno facciamo lo stesso. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio tutti gli ospiti, al ministro, ai sindaci, gli assessori, Paolo Gè, che sono intervenuti. Grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Continuate a votare sulla nostra domanda radio24.it sullo smog. A Oscar Giannino la linea, e noi ci troviamo domattina.